La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Nella prima parte del programma vi proponiamo la puntata andata in onda lo scorso 11 luglio. Dino Pesole dedica il suo approfondimento all'anniversario dei 150 anni della Croce Rossa, nata per opera di Henri Dunant in occasione della battaglia di Solferino e San Martino, combattuta il 24 giugno del 1859. Ospite ai nostri microfoni Maria Grazia Baccolo, del Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione Stiviere. Nella seconda parte vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo Il terrore e la memoria, la strage di Piazza Fontana, che si è tenuta durante È Storia, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. La Croce Rossa ha appena compiuto 150 anni, in coincidenza con la battaglia di Solferino e San Martino, che è stata combattuta il 24 giugno del 1859. Le truppe piemontesi e francesi da una parte, gli austriaci dall'altra. Una delle battaglie più cruente della storia, che segnò con la sconfitta dell'Austria la fine della Seconda Guerra di Indipendenza. Fu proprio in occasione di quella battaglia che nacque la prima idea della Croce Rossa, ma non è questo l'unico anniversario per la storica organizzazione umanitaria, poiché quest'anno cade anche il 90° anno della nascita della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e il 60° anno dell'adozione delle quattro convenzioni di Ginevra, corpo giuridico fondante del diritto internazionale umanitario. La fondazione della Croce Rossa la si deve alla caparbietà di un giovane uomo di affari ginevrino, Jean-Henri Dunant. Dunant è in Lombardia, nel pieno della Seconda Guerra di Indipendenza italiana, quando il 24 giugno del 1859 Solferino diviene teatro di una delle battaglie più sanguinose combattute in Europa. 40.000, tra francesi, piemontesi e austriaci, giacciono sul campo di battaglia. Impotente di fronte a impressionanti scene di dolore e di disperazione, Dunant cerca invano medici, chirurghi e infermieri che possano alleviare le sofferenze dei feriti. Si improvvisa infermiere. Raduna uomini e donne, procura acqua, biancheria e bende. Ritorna sui campi di battaglia per raccogliere altri feriti. Alla fine della guerra, Dunant torna a Ginevra per creare una società di soccorso volontario in ogni stato, con il compito di organizzare e addestrare squadre per l'assistenza dei feriti in guerra. Propone che i feriti e il personale sanitario vengano ritenuti neutrali dalle parti belligeranti, protetti da un segno distintivo comune. Pubblica un libro, Un ricordo di Solferino, che scuote profondamente le coscienze del tempo. Neutralità, imparzialità, umanità, indipendenza, volontariato, unità, universalità. Queste le parole d'ordine che contraddistinguono la Croce Rossa fin dalla sua prima costituzione. Nel 1862 Dunant aderisce alla Società Ginevrina di Utilità Pubblica ed insieme ad altri cinque svizzeri fonda il Comitato Ginevrino di Soccorso dei Militari Feriti, primo embrione del futuro Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il Comitato dei Cinque organizza a Ginevra il 26 ottobre 1863 una conferenza internazionale alla quale partecipano 18 rappresentanti di 14 paesi che il 29 ottobre firmano la prima carta fondamentale. La prima convenzione di Ginevra si conclude il 22 agosto 1864 con l'adozione di un documento di 10 articoli che garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle equip sanitarie e al materiale utilizzato. La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti. La Croce Rossa, su fondo bianco, viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità, riconosciuto a livello internazionale. Viene stabilita la regola fondamentale, secondo la quale i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano. Per rievocare i 150 anni della battaglia di Solferino e San Martino si sono svolte nelle scorse settimane numerose manifestazioni, rievocazioni storiche, spettacoli, mostre, concerti, culminati il 24 giugno nella commemorazione ufficiale e il 27 e 28 giugno nella gran fiaccolata notturna della Croce Rossa e nella rievocazione storica a San Martino con 200 figuranti in costume. Abbiamo in linea Maria Grazia Bacolo, che è una delle responsabili del Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Grazie per aver accettato il nostro invito, prima di tutto. Bene, ci parli delle manifestazioni che si sono svolte per celebrare questo importante anniversario. Le manifestazioni hanno cominciato già dal mercoledì con l'inaugurazione di una mostra multimediale inaugurata qui al Museo Internazionale della Croce Rossa, che ha segnato i 50 anni di apertura del museo. Ed è proseguito poi con un concerto pro Abruzzo che si è svolto a Castiglione delle Stiviere per raccolta fondi appunto per i terremotati. Il culmine è stato il campo che si è svolto a Solferino, provincia di Mantova, qui a pochi chilometri, dove ha ricevuto 3.500 persone provenienti da 160 nazioni che hanno lavorato sulle tematiche dei principi fondamentali e sui valori a cui la Croce Rossa si rifà. E poi la fiaccolata è stata il culmine più alto, che è una manifestazione che ormai si svolge da 17 anni continuativamente e che vede la partecipazione di volontari e di personale di Croce Rossa da tutto il mondo, e dando così grande energia alle persone che partecipano, perché è scambiarsi valori, scambiarsi idee che ha portato Henri Dunant alla fondazione della Croce Rossa 150 anni fa. Appunto, valori e idee, lei diceva poc'anzi, che sono strettamente connessi alla nascita della Croce Rossa, evento, lo abbiamo ricordato noi poco fa, che coincide appunto con una delle battaglie più cruente, più drammatiche della storia. Sì, la battaglia di Solferino è stata una battaglia che ha segnato una cesura, perché è stata una battaglia che ha fatto in modo che la storia prendesse un'altra direzione, ha fermato l'Austria, ha costretto l'Austria a ritornare nel suo territorio e l'ha fermata in quel territorio, ha cambiato le carte in tavola in questo modo, permettendo poi quello che poi è stato la missione impossibile di Garibaldi per quanto riguarda l'organizzazione dei Mille, e favorendo l'unità d'Italia. Infatti è il punto di non ritorno per quanto riguarda la storia italiana. In quel momento si è dato l'avvio alla Costituzione dell'Unità d'Italia. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Ora vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo Il terrore e la memoria, la strage di Piazza Fontana, che si è tenuta durante il festival È Storia di Gorizia. Il 12 dicembre 1969 un grave attentato terroristico colpisce il centro di Milano. Alle 16.37 una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, provocando la morte di 16 persone e il ferimento di altre 88. Una seconda bomba fu rinvenuta fortunatamente inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala. Un terzo ordigno esplose a Roma alle 16.55 dello stesso giorno, nel passaggio sotterraneo che collegava l'entrata di Via Veneto con quella di Via San Basilio della Banca Nazionale del Lavoro, facendo 13 feriti. Altre due bombe esplosero a Roma tra le 17.20 e le 17.30, una davanti all'altare della patria e l'altra all'ingresso del Museo del Risorgimento, in Piazza Venezia, facendo 4 feriti. Dal TG del Secondo Canale, edizione delle 23. 13 morti e un'ottantina di feriti a Milano per lo scoppio di una bomba in una banca. Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Esplosioni anche a Roma, al monumento al Milite Ignoto a Piazza Venezia e in una banca. Il bilancio è meno tragico, ci sono 16 feriti. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato. Ecco come Gerardo D'Ambrosio, giudice istruttore al Tribunale di Milano, ricorda quel pomeriggio del 12 dicembre 1969. Ricordo perfettamente dove ero in quel momento, ero nel mio ufficio, aprì la porta il capo dell'ufficio che era Antonio Amati, dirigente dell'ufficio di istruzione, disse: è scoppiata la caldaia della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Lo accenno a questo fatto perché la stessa cosa si disse per la strage di Bologna, che fu nell'80, molti anni dopo, ma comunque anche lì, sì, nell'agosto, si disse che come prima notizia quella che apparve era che era scoppiata la caldaia di riscaldamento una caldaia all'interno della stazione. Poi invece, purtroppo, dovemmo constatare che si trattava altro che di caldaia, era stato un attentato, e la cosa che fece grandissima impressione in tutti quanti noi è che era il primo degli attentati in cui erano state coinvolte, c'erano stati tanti morti, erano 16 morti, come ha ricordato prima, e oltre 80 feriti, per cui la cosa impressionò enormemente e ci fu una mobilitazione generale per vedere che cosa era successo. Dal TG Rai, 16 dicembre 1969. Pochi istanti fa è arrivata questa notizia: un anarchico appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valpreda, è stato riconosciuto da un testimone giunto stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato, ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato in arresto. Ripeto, è una notizia di pochi istanti fa, avevamo già previsto un collegamento con la questura dove si trova Bruno Vespa. Chiediamo intanto una conferma di questa notizia. Pronto Vespa? Sì, sono qui. Pietro, ecco. Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. La polizia pensa subito a degli esponenti anarchici come agli unici responsabili dell'attentato. Il 16 dicembre arrestano Pietro Valpreda, appartenente al gruppo 22 marzo, il quale viene accusato di essere l'esecutore materiale della strage. Il giudice D'Ambrosio si è occupato delle indagini sui tragici fatti che hanno riguardato Piazza Fontana. Secondo me questa è vero quello che si dice, che per le stragi non si riesce ad accertare la verità, ma è altrettanto vero che qui la prima cosa che successe fu l'anomalia di questo processo, perché non scoppiarono tutte e due le bombe, scoppiò solo quella della Banca Nazionale dell'Agricoltura, provocando il disastro che provocò, ma l'altra bomba che era stata collocata nei pressi dell'ascensore della Banca Commerciale Italiana a Milano non esplose. Quindi c'era stata una bomba che era esplosa alle 16:30 precise nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, che aveva provocato i 16 morti. C'era stato poi poco dopo, alle 16:50, l'esplosione nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, che aveva provocato solo alcuni feriti e neanche molto gravi nel sottopassaggio, e poi c'erano state queste due esplosioni più tardi all'altare della patria. Erano state collocate anche lì due ordigni, una al presso il Pennone e un altro presso il museo. E la cosa strana è che noi avevamo le tracce del reato, avevamo degli spunti enormi per cominciare un'indagine seria, perché era sicuro che si trattasse di ordigni a tempo e che quindi questa borsa era stata scoperta diverso tempo dopo, quindi poi era stata segnalata alla polizia. La polizia era andata all'interno della banca commerciale e all'interno della banca commerciale aveva aperto la borsa, si trattava di una borsa senza scomparti in cui era collocata una cassetta metallica, una cassetta Juvel, quelle che vendevano molti dei rivenditori di ferramenta, e queste cose furono fotografate. Però stranamente, quando poi io cominciai, perché anche questa è una cosa strana, che durante tutta la prima istruttoria, quella di Valpreda, non fu fatta nessuna indagine tecnica sui reperti, non erano stati neanche aperti. Quando io poi, incaricato delle indagini, cominciai e dovetti ricominciare da capo, perché io dovevo colmare delle lacune di un'indagine, perché erano altri imputati, e dovevo vedere se avevo spazio per condurre un'indagine diversa, mi accorsi che i reperti non erano stati neanche aperti. Bene, voi non ci crederete, di tutte le esplosioni c'erano dei reperti, ma nessun reperto della bomba esplosa, quella inesplosa. Non fu trovato nessun reperto, perché stranamente, e questa è la prima cosa, un sostituto che non era il sostituto di turno autorizzò che questa bomba venisse fatta scoppiare da un perito che era stato chiamato in altre occasioni per degli attentati. Ma un'altra cosa strana che accadde, chi è più anziano ricorderà, che immediatamente dopo venne mostrata in televisione, allora c'era ancora la televisione in bianco e nero, la borsa che era stata, in cui era contenuto questo ordigno, che per fortuna non fu fatta esplodere anche lei, fu conservata, che conteneva fra l'altro anche un dischetto in cui c'era segnato 60 minuti, che era un altro indizio particolare che diceva che si trattava di un ordigno a tempo e che quindi non c'era pericolo nell'aprire la cassetta, e questa borsa fu mostrata in televisione, e noi solamente dopo, durante la mia istruttoria, quando trovai negli atti che queste borse erano fabbricate in Germania ed erano state vendute in Italia, i negozi che le vendevano erano solo 35, erano solo 35, e non c'era nessuno di questi negozianti interrogato. Per cui, rifatta l'indagine completamente, si scoprì e dovemmo, ed eravamo noi per la prima volta che andavamo a bussare con le mani e coi piedi agli uffici di polizia, che scoprimmo dopo, nella seconda istruttoria, e questa è anche una grossa anomalia, che quando fu mostrata la borsa in televisione, un negoziante di Padova si era presentato agli uffici di polizia e aveva detto: quella borsa l'ho venduta io. L'ho venduta io e a un giovane che ne ha chieste tre. Ne ho venduto quella nera e due marroni. Questo giovane che era venuto per comprare queste borse, quando seppe il prezzo che era conveniente, badate bene, il giovane voleva delle borse che non avessero divisori all'interno, e questo era anche significativo per l'utilizzo che ne doveva essere fatto. Ne prese quattro, tre marroni ed una nera. Questo fu accertato dopo, durante la mia istruttoria, quando andammo a bussare agli uffici della polizia, e trovammo che di questa notizia era stata informata la questura di Milano, era stato informato l'ufficio affari riservati, erano stati informati i carabinieri, erano stati informati tutti tranne il magistrato. Ascoltiamo ora dalla voce di Giorgio Galli, politologo ed autore di numerosi libri ed interventi su terrorismo nero e rosso, come quegli episodi cambiarono profondamente la vita politica e culturale del nostro paese. Che cosa sarebbe accaduto in Italia se sin da allora si fosse pensato che la bomba di Piazza Fontana non era stata messa dagli anarchici, la sinistra non c'entrava nulla e la pista più consistente portava a destra e ai neofascisti? Non pensiamo all'Italia del 72, quando il contesto era cambiato, tanto che nel 72 prevalsa una certa rappresentazione della realtà all'opinione pubblica, si ebbe uno spostamento a destra. Ma nel dicembre del 69 sarebbe stato tutto diverso, cioè l'individuazione di responsabilità a destra e quindi un voto a sinistra molto più accentuato, per esempio nelle elezioni regionali del 70, probabilmente sarebbe accaduto quello che accadde dopo le elezioni regionali del 75, cioè una crisi così forte del sistema politico italiano da rendere necessario nel 76, addirittura su indicazione della Confindustria e del suo presidente di allora, l'avvocato Agnelli, che per evitare un'ulteriore esasperazione delle tensioni politiche e sociali bisognava ricorrere alla gestione della situazione politica col contributo del Partito Comunista. Questa è la chiave interpretativa di tutto questo periodo, che probabilmente avremmo avuto il tipo di spostamento a sinistra derivante dal comportamento che ho descritto dell'opinione pubblica del 75-76, l'avremmo anticipato nel 70. Il 28 maggio 1969 a Brescia, nella centrale piazza della Loggia, un attentato terroristico compiuto da gruppi neofascisti provoca la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 94. Una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti è fatta esplodere mentre è in corso una manifestazione contro il terrorismo nero, indetta dai sindacati e dal comitato antifascista. Fermi! State fermi! State calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria di Brescia, il 28 maggio faceva parte del corteo. Nella strage di Piazza della Loggia ha perso sua moglie, morta sul colpo a causa dell'esplosione. Se la strage di Piazza Fontana avviene, come poi avverrà per quella sui treni di Italicus del 74 o Bologna, assumono la funzione simbolica di terrore puro e semplice, teso cioè a incutere paura in mezzo alle persone e attraverso la paura rompere da un lato evidentemente i processi di relazione tra le persone, clandestinizzare la politica, si diceva in un certo qual modo allora, ma dall'altro attraverso il caos giustificare risposte e interventi d'ordine. Piazza della Loggia non è questa. Piazza della Loggia, proprio perché avviene in una piazza, quindi nel luogo simbolico del dove riunirsi, dello stare insieme, delle relazioni, eccetera, eccetera, diventa anche esplicitamente l'attacco diretto alle istituzioni. È esplicita da questo punto di vista. E non a caso avviene, come ricordava Giorgio Galli prima, 15 giorni dopo il divorzio. Perché il divorzio e l'affermazione del mantenimento di quella legge sta lì a dimostrare come era profondamente cambiata la società italiana e come quindi la sconfitta della Democrazia Cristiana costituiva agli occhi degli avversori, o perlomeno degli avversori più estremisti, chiamiamoli così, che la Democrazia Cristiana non era più in grado di contenere la svolta a sinistra. A Catanzaro si conclude il processo d'appello per la strage di Piazza Fontana. Vengono assolti per insufficienza di prove i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura. Dal TG1 del 20 marzo del 1981. 96 ore di Camera di Consiglio e quindi la sentenza. Una sentenza che dice non ci sono prove sufficienti per condannare tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana. Questa è la decisione clamorosa della Corte d'Assise di secondo grado di Catanzaro. Franco Freda e Giovanni Ventura assolti per insufficienza di prove dalla strage, ma condannati a 15 anni di reclusione per associazione sovversiva ed alcuni attentati del 1969. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Buonanotte.